Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente ancora al centro la manovra corretta, emendata come si dice in gergo, rifaremo il punto, già i nostri GR vi hanno aggiornato, vi hanno raccontato che per esempio il contributo di solidarietà resta non solo per i deputati ma anche per gli statali, il contributo per chi guadagna più di 90.000 euro lordi l'anno. E però i conti, questo è un programma che si occupa soprattutto di conti, i conti non tornano in senso stretto perché mancano l'appello rispetto alla manovra originaria, 4 miliardi di euro. La manovra varata lo scorso 13 agosto aveva un impatto di circa 51 miliardi sui due anni su cui era spalmata, però mancano, essendosi ridotti di 2 miliardi i tagli agli enti locali, anzi 3 miliardi praticamente. Perché da 9 sono scesi a 6 e venendo meno anche una parte del contributo di solidarietà, per cui i 90.000 euro, l'aumento della tassazione sopra i 90.000 euro lordi l'anno avrebbe dovuto portare 3 miliardi e 6 in 3 anni, il calcolo complessivo è appunto di circa 4 miliardi che mancano e non si capisce in questo momento da dove arriveranno, è il primo punto. Poi c'è chi invece plaude al fatto che siano stati eliminati alcuni tentativi di toccare le pensioni da un lato, di aumentare l'IVA dall'altro e lo stesso contributo di solidarietà, e c'è chi invece dice ma questo è un dibattito più politico, è una manovra elettorale che tiene conto solo dell'elettorato e non dell'emergenza che ha dettato questa manovra. Ricordiamo cosa è successo tra metà luglio e metà agosto, l'attacco speculativo, ma non in senso di giudizio negativo, un attacco speculativo al debito italiano oltre che a quello spagnolo, gli spread in rialzo. E a proposito di spread, oggi c'è stato un'asta di BTP molto importante, nel senso che con le tensioni che ci stanno accompagnando sui mercati, ogni singola asta in cui il nostro tesoro colloca e quindi cerca finanziatori per il debito italiano è un'asta da seguire con attenzione. I tassi, e quindi quanto rendono questi BTP, quanto costa allo Stato italiano trovare finanziatori per il suo debito, sono calati e questa è una buona notizia. La domanda è stata in linea, oggi sono stati collocati tra i 5 e 5,5 e gli 8 miliardi era l'offerta. La domanda è stata di 6 miliardi e 7, BTP a 3 e 10 anni. La cosa però che non torna è che nonostante i rendimenti in calo, è una domanda buona, lo spread tra il BTP e il Bund è salito, e quindi la differenza tra quanto costa a noi trovare finanziatori per il debito e quanto costa la Germania è tornata a 297 punti e poi, nemmeno un'ora fa, è tornata sopra i 300 punti. E questo è il tema di cui ci occuperemo, quindi manovra finanziaria da un lato e tensioni sui mercati dall'altro. C'è anche la vicenda che tratteremo dell'asta sulle frequenze, le frequenze 4G messe a gara, le offerte iniziali ammontano a 2,3 miliardi di euro in totale, lo ha annunciato oggi il Ministero dello Sviluppo Economico. Da domani comincerà l'asta vera e propria nella quale i partecipanti potranno effettuare i rilanci, e anche di questo parleremo perché partecipano tutti i più grandi gruppi delle telecomunicazioni in Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Vedo già messaggi che dicono ma perché non si è fatto come in Francia o si pensa di fare in Germania, cioè la tassazione dei ricchi, dei patrimoni alti. Ricorderete la lettera di Warren Buffett che dice insomma perché io pago così poco, miliardario, gestore di fondi americano, pago poco rispetto a quello che dovrei, e la posizione presa da Sarkozy in Francia dove arriverà una tassazione per i più ricchi e per i patrimoni superiori a una certa cifra. È scomparsa dalla manovra, si è ipotizzato 1,5 milioni sopra il 1,5 milioni di euro escluso la prima casa, c'era chi aveva proposto anche, lo ricorderete, Montezemolo, non solo una tassazione per i redditi più alti ma anche in lira, la proposta arrivata dalla Lega. da Tosi per la precisione, di tassare chi aveva usato lo scudo fiscale per far entrare il capitale, tutto questo non c'è più, non c'è mai stato, ma insomma non è diventato nemmeno un emendamento nella legge finanziaria. Di questo parleremo più avanti, ripeto, 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dalla borsa. Allora, oggi è leggermente in calo, ma nulla di preoccupante, meno 0,48% Milano in questo momento, sempre sui 15.000 punti. Il FTSE MIB Parigi invariata, Francoforte meno 0,60, Londra che oggi è aperta invece guadagna il 2,23%, ma appunto era chiusa ieri, quindi sta recuperando quello che non ha guadagnato ieri. Dow Jones meno 0,22%, euro sotto quota 1,45, 1,44 i titoli. Oggi ci sono vendite su Monte dei Paschi meno 2,5%, Intesa San Paolo meno 2,30 e UbiBank meno 2%, ma anche Unicredito perde l'1,5%. Perde anche Terna il 2,30%, Snam Rete Gas il 2,20% ed Enel il 2%. Anche Fiat è in calo dell'1,80%. Per cento, chiudiamo con Parmalat meno 1,44 e Popolare di Milano meno 0,70%. Netto rialzo invece per Fondiere SAI più 4,90%, Buzzi Unicem più 2,70%, Tods più 2,54%, Fiat Industrial più 1,90%, Pirelli più 1,80%, Mediaset più 1,60%, Tenaris più 1,30%, Atlantia più 1,31%, Luxottica più 1,17%. Dati che arrivano dall'estero, beh, intanto diamo anche l'oro. L'oro oggi è tornato sopra i 1800 dollari l'once, questo non è un buon segnale, è il bene rifugio per eccellenza. Il petrolio invece è stabilmente sotto i 90 dollari al barile, 86,82 dollari al barile, e tra l'altro sul fronte del petrolio si segnala oggi un accordo tra il colosso petrolifero russo Rosneft e ExxonMobil per l'esplorazione del Mar Artico. Lo ha annunciato lo stesso premier russo Vladimir Putin dopo un incontro con i vertici dell'ExxonMobil, colosso petrolifero americano, un investimento da 200-300 miliardi di dollari. Ha detto Putin, se consideriamo anche la costruzione delle intere infrastrutture, la cifra complessiva può arrivare a 500 miliardi di dollari, questo per esplorare appunto russi e americani assieme i giacimenti artici. E poi un dato che purtroppo è una conferma: le imprese italiane, chi fa imprese in questo paese, paga il 31% in più l'elettricità rispetto alla media europea. Sono praticamente 8 miliardi di euro all'anno in più per il costo, come costo di sistema, che paghiamo complessivamente rispetto a quello che è la media europea. Vedo che c'è un ascoltatore che saluta, dice: è arrivato lei Barisoni, le cose vanno male. Ma veramente, c'ero anche ieri, il mercato guadagnava 2,5, ma comunque bastasse la mia assenza per far andare bene la borsa, torno subito in vacanze. Dati americani, la cosiddetta crisi 2.0, come l'avevamo battezzata, perché? Perché il double dip, il timore che si possa tornare in recessione in America. Allora, il dato di oggi sulle sui prezzi delle case nelle 20 maggiori città americane sono tutti scesi del 4,5% rispetto a un anno fa, e questo segnala quantomeno una difficoltà economica. Come se non bastasse, oggi è crollata letteralmente anche la fiducia dei consumatori americani, siamo ai minimi dall'aprile del 2009 e quindi dai mesi successivi al crack Lehman Brothers. ha pesato soprattutto il dibattito americano sull'aumento del tetto del debito, ma sicuramente insomma i consumi in America tornano a essere difficili. Vedo che alcuni ci chiedono anche l'asta sulle frequenze TV. Sì, il governo aveva stimato di poterlo ottenere fino a 4 miliardi, vedremo. Siccome un'asta, la base d'asta è 2 miliardi e 3, vedremo come andranno i rilanci. Torniamo all'Italia, e oltre al collocamento dei BTP italiani, oggi c'è un dato che riguarda il nostro commercio, o meglio le vendite al dettaglio. Il dato riferito al mese di giugno sono diminuite dell'1,2% a livello grezzo, rispetto allo stesso mese del 2010, e dello 0,2% rispetto a maggio. Il dato sui primi sei mesi dell'anno, quanto a vendite al dettaglio, quindi ai consumi, è negativo dello 0,4% e andrebbe sommata anche l'inflazione, per cui andiamo a un dato negativo di oltre l'1%. E adesso parliamo di manovra italiana. Fateci anche raccontare una cosa abbastanza ironica, ce l'hanno segnalata anche alcuni ascoltatori sulla nostra pagina, sulla pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, chi ha un iPhone può scaricare oggi un'application che si chiama tassa.ly. In questo modo può segnalare casi di evasione fiscale direttamente dal dispositivo. La segnalazione è del tutto anonima e può essere fatta, ad esempio, quando un esercente non rilascia lo scontrino o quando viene messa una fattura errata. Le segnalazioni sono geolocalizzate, accessibili da tutti gli altri utenti che utilizzano la stessa app. È un'idea di Startup Weekend, e si può scaricare tranquillamente dalla Apple Store. Al di là di quello che fa l'iPhone, è abbastanza singolare che adesso ci sia anche l'application per denunciare o per fare la delazione di chi evade il fisco, anche per esempio non emettendo lo scontrino. ...349-238-6666 per i vostri sms. E adesso no, ho scatenato qualunque tipo di commento sull'idea che la mia presenza possa incidere sui mercati. Adesso partiamo seri e vediamo di capire che cosa non tanto c'è di nuovo nella manovra finanziaria, quello già emerso ieri sera, ma che cosa hanno detto oggi alcuni soggetti, la Banca d'Italia, la Corte dei Conti e l'Istat, nel caso specifico, sulla manovra finanziaria nella sua nuova versione. Soddisfatta della nuova versione della manovra, il premier Silvio Berlusconi, resta composta al 70% da nuove entrate e farà salire comunque la pressione fiscale dal 46,6% del PIL attualmente al 48,4% nel 2012. Il giudizio del Presidente del Consiglio oggi in un'intervista a Studio Aperto. Sì, sono molto molto soddisfatto, perché la manovra è molto migliorata senza modificare i saldi, e noi non dobbiamo dimenticare che alla vigilia di Ferragosto abbiamo dovuto varare una manovra d'urgenza in meno di 4 giorni. Credo che nessun governo europeo sarebbe riuscito a varare una manovra di così ampio livello, 45,5 miliardi di euro, e l'abbiamo dovuto in così poco tempo, e l'abbiamo dovuto fare per ottenere l'intervento della BCE che aprisse una specie di ombrello fideiussorio sui mercati in relazione ai titoli del nostro debito pubblico che erano sotto attacco della speculazione. Abbiamo detto subito che quella manovra sarebbe migliorata successivamente con più tempo, e io credo che il fatto di avere sempre lavorato in questi giorni di agosto senza fare praticamente ferie ci abbiano portato al risultato di rendere la manovra più equa, più assolutamente sostenibile. Io avevo detto, lei si ricorderà, da subito che per esempio introducevo il contributo di solidarietà con il cuore che grondava sangue, perché da sempre io avevo promesso agli italiani che non avremmo mai messo le mani nelle loro tasche, e quindi questo siamo riusciti ad ottenerlo trovando altre fonti di risparmio. Abbiamo inasprito la lotta all'evasione fiscale dando ai comuni, cioè agli enti più vicini al territorio che conoscono meglio le situazioni patrimoniali dei cittadini, la possibilità di fare controlli più capillari e quindi di mantenere nelle proprie tasche il maggior gettito che ne verrà. E poi lo stesso Berlusconi ha detto: l'accordo dimostra che la maggioranza è forte e coesa, e il relatore della finanziaria Antonio Azzolini ha precisato che il contributo di solidarietà resterà invece per gli statali, per cui per tutta la pubblica amministrazione oltre che per i deputati. Dino Pesole, del Sole 24 Ore, La Voce, quando parliamo di manovre finanziarie. Buonasera. Buonasera, eccomi. Allora, che il Premier sia soddisfatto è comprensibile, perché alla fine si è ottenuto un accordo anche e soprattutto con la Lega. Cerchiamo di capire qual è il giudizio invece di soggetti non politici come la Banca d'Italia, la Corte dei Conti e l'Istat. Allora, il giudizio forse più forte oggi è arrivato proprio dal vice direttore generale della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in audizione al Senato sulla manovra finanziaria. Ha detto: attenzione, la crescita economica italiana quest'anno, come ha già stimato ieri il Fondo Monetario Internazionale, potrebbe essere sotto l'1%, quindi è ancora più debole nel 2012, e poi le modifiche apportate alla finanziaria non devono aumentare il peso fiscale. Il rischio che il paese corre è la stagnazione. L'Italia ormai cresce poco, meno degli altri paesi dell'Unione Europea, e tuttavia l'aggiustamento dei conti, che è necessario per evitare uno scenario molto più grave, avrà inevitabilmente effetti recessivi sull'economia. Si rischia una fase di stagnazione che rallenterebbe anche la flessione del peso del debito sul PIL. Per questo il riequilibrio dei conti pubblici non può non associarsi a una politica economica decisa volta al rilancio delle prospettive di crescita dell'economia. Non vi sono tuttavia alternative a un rapido pareggio ai nostri conti pubblici e al miglioramento della qualità della regolamentazione dei servizi. L'azione di risanamento dei conti pubblici, che è volta al pareggio del bilancio nel 2013, tuttavia rallenterà la crescita e non ha alternative. Ogni altro scenario condurrebbe a risultati più drammatici per il nostro Paese. L'entità complessiva dell'aggiustamento programmato non può essere ridotta, la composizione, oggi maggiormente a carico delle entrate, andrà quanto prima, secondo noi, rivista, rafforzando l'azione di contenimento della spesa. Allora, la Banca d'Italia ha sempre un linguaggio molto istituzionale, ma in sostanza cosa dice Ignazio Visco? Dice che l'impatto sull'economia italiana sarà comunque un impatto recessivo, o meglio, ridurrà il potenziale di crescita. Dice anche che non si poteva fare altrimenti, viste le pressioni che arrivavano dall'esterno e vista la necessità di proporre una manovra finanziaria più credibile rispetto a quella di luglio. Però aggiunge: attenzione che sulla crescita non c'è molto, e se si vuole liberare un po' di risorse tagliando questo benedetto o maledetto cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto costa un dipendente al datore di lavoro e quanto becca lui in busta paga, bisogna pensare ad altri strumenti: o l'aumento dell'IVA o un prelievo sugli immobili, quindi la reintroduzione dell'ICI per la prima casa. Volete anche sapere dei parlamentari? Aspettiamo un attimo a vedere cosa capiterà nella riforma costituzionale. Comunque, Dino Pesole, la Banca d'Italia è sembrata così freddina sulla manovra. Non è arrivata però una stoccata che alcuni immaginavano, e cioè chiedere i 4 miliardi che tu calcolavi oggi su Sole 24 Ore, che vengono meno con queste modifiche, da dove verranno trovati? Ecco, sono due aspetti di un problema che poi alla fine è identico, e cioè da un lato si dice che questa è una manovra che ha effetti recessivi, ed è evidente, perché nel momento in cui si fa una correzione di 45 miliardi non può che essere così. Il problema va aggiunto, forse a integrazione di quello che ha detto Visco stamattina, è che se noi cresceremo molto di meno rispetto a quanto previsto, non sarà facilissimo raggiungere il pareggio di bilancio, perché il deficit è strettamente collegato alla crescita. Se si cresce di meno è evidente che possono esserci dei rischi a raggiungere quell'obiettivo. L'altro aspetto riguarda le coperture. Dal vertice di ieri sera e a tutt'oggi, almeno finora, fino a che non vedremo nero su bianco l'emendamento o gli emendamenti o il maxi emendamento, a noi continua a risultare una certa confusione sulle coperture ed è molto semplice sintetizzarlo. Fino adesso nel testo della manovra poteva piacere o no, a me personalmente non piaceva molto, comunque c'era una previsione di entrate certe, vale a dire si prevedeva attraverso questo contributo di solidarietà di incassare 3,8 miliardi nel 2012-14. Ora, nel momento in cui viene meno questo maggior gettito, si dice che si farà fronte con la lotta all'evasione e il potenziamento degli strumenti dei comuni nella lotta all'evasione. Peraltro ricordo che questa è una norma che è già presente nell'ordinamento e quindi adesso voglio vedere quando sarà scritta in che modo verranno ulteriormente potenziati. E quindi qua c'è un gettito che non è certissimo, perché figuriamoci, tutti saremo molto lieti che dalla lotta all'evasione si ottenessero grandi risultati, però insomma non è possibile stabilirlo prima. L'altro aspetto riguarda questa misura sulle pensioni. Il fatto che si dica che ora valgono i 40 anni di contributi effettivi e dunque non dovrebbero valere più gli anni di riscatto di laurea ai fini, diciamo, della maturazione degli anni che servono alla pensione, ma questi però danno risparmi nel 2013-14 di 1,5 miliardi e il 2012? Allora qui ci sono degli interrogativi che il governo Io devo dire che trovo è anche interessante da un punto di vista giornalistico il silenzio di Tremonti, perché insomma in altri periodi è inutile girarci attorno, con un Tremonti meno indebolito e ancora più domus unico delle manovre del governo avrebbe chiarito subito questi 4 miliardi da dove li va a prendere. Parliamoci molto chiaro, c'è un silenzio che vedremo se verrà rotto. Allora, alcune risposte a 349-238-6666. Beh, alcuni vogliono sapere se saremo in diretta anche quest'anno dal workshop Ambrosetti a Cernobbio. Sì, certo, venerdì, dove arriveranno ministri di tutta Europa, economisti e quant'altro, per discutere della crisi. E chiudo l'inciso. Invece molti vogliono sapere, per quello che riguarda la misura sugli statali, se è costituzionale, se potrebbe reggere. Beh sì, Dino, non penso ci possano essere dei rilievi. Cioè, tu puoi chiedere un contributo di solidarietà agli dipendenti pubblici e non a quelli del mondo privato. Su questo penso. Dunque, questa è una norma che anch'essa già è stata varata lo scorso anno. Il problema fondamentale però riguarda il dispositivo del decreto all'esame del Senato, che disponeva nella vecchia formulazione il nuovo contributo di solidarietà per i privati, chiamiamoli così, e contestualmente aboliva quello a carico degli statali, perché si pensava in tal modo di allineare per tutti questo nuovo contributo. Il problema è che Azzolini, presidente della Commissione Bilancio del Senato, ha chiarito che quella a carico degli statali resta in vigore. Allora, questa altalena normativa potrebbe creare dei sospetti, già peraltro qualche sospetto che ci possano essere dei dubbi di costituzionalità c'era stato. Io trovo un po' singolare che si continui a dire i pubblici sì e sì anche i parlamentari, come se poi fosse una gentile concessione, ma anche i parlamentari sono dipendenti pubblici, e poi si dica però per i privati ci abbiamo ripensato. Allora, io capisco che ci possono essere anche dei ripensamenti in manovre così importanti, però su questi aspetti, soprattutto sui diritti acquisiti, non si scherza molto, perché poi... No, devo dire che gli ascoltatori sono molto arrabbiati, soprattutto per quello che riguarda il servizio militare, che chi l'ha fatto a quel tempo era obbligatorio, ricordo che non era volontario, è da pochi anni che non c'è più. E insomma, chi l'ha riscattato, chi ha fatto una pianificazione. Oggi la UIL è molto dura su questo, insomma da qualche parte bisognava a mio avviso toccare le pensioni. Io continuo a ritenere personalmente che innalzare l'età pensionabile sia la misura non indolore, perché non è indolore, ma meno dolorosa di altre. Detto questo, sicuramente molti sono arrabbiati per questo aspetto. Sulla lotta all'evasione, il ragionamento fatto da te è chiarissimo, diciamo che è certa l'evasione, meno certa la lotta, vediamola così, perché quanto arriverà di incassa dalla lotta all'evasione è sempre molto aleatorio. Vorrei, dopo però il meteo e la pubblicità, concludere sul taglio alle province, tutte le province e i deputati, perché insomma anche gli asini possono volare. Ma io vorrei capire di cosa stiamo parlando, perché un conto è parlare di cose che possono avvenire in un tempo ragionevole, un conto è parlare di legge costituzionale. Ma spero di sbagliarmi. 349-238-6666 per i vostri sms. Dopo il meteo, la risposta. ...17:35 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Dino Pesole, prima, anzi, facciamo subito il commento al taglio delle province e dei deputati, poi arriviamo anche alla valutazione dell'Istat e della Corte dei Conti. Legge costituzionale, vabbè, ne parleremo così, al bar? Legge costituzionale, i tempi che conosciamo, e quindi se va bene ci vorranno 2 anni. Nel frattempo ci sarà pure l'interruzione naturale della legislatura, quindi mi sembra assai improbabile che entro questa legislatura si arrivi a questo, né tantomeno al taglio, al dimezzamento dei parlamentari. Quindi al momento mi sembra una indicazione che risponde a una motivazione tutta politica, lo capisco, e capisco anche che si voglia dare il segnale, però bisogna essere al tempo stesso coscienti del fatto che non si può fare. Dopodiché poi nella prossima legislatura vedremo se la prossima legislatura nascerà con questo sano intento riformatore, ne saremo tutti ben contenti. Al momento obiettivamente non si può calcolare alcun risparmio di una norma che non si sa nemmeno se poi verrà mai approvata. Quindi per ora più di questo obiettivamente non si può dire. Andiamo bene, proprio bene. Ti sei beccato la sorellella di Dino Pesole. No, perché... Beh, adesso, cioè, noi cerchiamo di fare un programma sui dati, sui numeri, sui contenuti. Sto taglio dei parlamentari, delle province, dai, è un pur parlé. Invece vorrei far ascoltare, proprio sui numeri, sulle previsioni, quella che è la stima dell'Istat, del presidente Enrico Giovannini. Anche lui ha ascoltato oggi al Senato. Sentite. Alla luce dell'attuale quadro macroeconomico, anche un tasso di crescita dell'1% per il 2011 appare oggi di difficile realizzazione. Ricordo che il DEF prudentemente aveva previsto una crescita dell'1,1%, mentre le anticipazioni delle previsioni del Fondo Monetario Internazionale indicano un aumento dello 0,8%. I segnali emersi per l'Italia nei mesi più recenti non hanno modificato in maniera sostanziale il quadro di incertezza congiunturale delineato a partire dall'ultimo scorcio del 2010 e caratterizzato dal permanere di un ritmo di crescita del PIL inferiore a quello dell'area dell'euro. Nei mesi primaverili si è assistito a un sostanziale recupero dell'attività produttiva nell'industria manifatturiera, con una crescita importante anche se irregolare del fatturato, soprattutto all'esportazione. D'altro canto, il nostro Paese mostra una spiccata debolezza dei consumi delle famiglie, confermata dall'andamento negativo dei dati più recenti sul commercio al dettaglio. I consumi sono penalizzati dalla caduta del potere d'acquisto, che ricordo è proseguita anche nel primo trimestre del 2011, sul quale continuano a pesare una dinamica delle retribuzioni medie inferiore a quella dei prezzi e una dinamica occupazionale molto stentata. È facile prevedere che i consumi collettivi, anche per effetto della manovra, non forniranno contributi positivi alla crescita del reddito. D'altra parte, la domanda delle imprese per investimenti e scorte, almeno nel breve periodo, non appare in grado di dare un apporto significativo alla crescita. Le indagini Istat più recenti rilevano, infatti, il permanere di un basso livello di capacità utilizzata e un livello piuttosto elevato delle scorte rispetto alle attese di produzione. E anche l'Istat è sulla linea della Banca d'Italia, del Fondo Monetario Internazionale di ieri. Difficile che l'Italia riesca a crescere all'1% quest'anno. E poi suggerisce il presidente Giovannini: occorre ridurre i condoni fiscali, meno condoni fiscali e contributivi, e tagliare il numero delle partite IVA. Ultimo intervento di oggi, quello del presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, ha detto: attenzione, la leva fiscale di questa manovra ci sono rischi depressivi. E poi quello che è stata l'ultima formulazione ci lascia un po' perplessi. Ascoltiamo. In una valutazione necessariamente di sintesi, la Corte ritiene in via preliminare di avanzare perplessità sulla scelta che ha condotto a formulare e quantificare la manovra correttiva senza un aggiornamento del quadro macroeconomico previsionale. Aggiornamento indispensabile in relazione alle meno favorevoli condizioni internazionali e agli effetti connessi alle stesse misure di contenimento del disavanzo contenuto nel decreto. Sotto questo aspetto, il ricorso prevalente alla leva fiscale, quasi tre quarti della manovra se si sommano interventi diretti e indotti, e in particolare le modalità di intervento prescelte, determinano la compressione del reddito disponibile e accentuano i rischi di effetti depressivi. In tal modo appare ribadita la logica ribaltata la logica originaria della delega fiscale, da strumento per mera redistribuzione del carico fiscale a mezzo per il reperimento di ingenti risorse aggiuntive fino a circa 20 miliardi per la correzione del disavanzo pubblico. Allora, Dino Pesaro, intanto continuano i messaggi sul riscatto della laurea e soprattutto del servizio militare. Devo ribadire, la norma è molto chiara su questo: non potranno essere conteggiati per andare in pensione né il periodo di laurea e né il servizio militare. La misura riguarderebbe circa 180.000 persone, stando alle stime, con un risparmio di 1,5 miliardi in 2 anni. Molti ascoltatori sono furibondi perché dicono: ma come, io ho pagato fior di milioni di vecchie lire per riscattare la laurea, appunto perché questo permetteva di andare in pensione prima, e adesso lo Stato cambia il contratto con me, e vale anche per il servizio militare. Mi hai fatto fare il servizio militare, mi hai dato la possibilità di riscattarlo e cambi il contratto. Lo so. A chi dice: ma lei come fa a dire che le pensioni sono il male minore? Lo ribadisco, cioè, di tutte le misure che abbiamo ascoltato, oltre alla lotta all'evasione, è una tassazione più alta per i capitali e i patrimoni sopra 1,5 milioni. L'altra misura che si poteva intravedere era quella sulle pensioni, ma c'è stato no della Lega. Dino Pesole, alla fin fine, sul fronte di i ricchi, chi più ha, i patrimoni, l'evasione, c'è poco o niente questa manovra. L'unica misura, chiamiamoli ricchi, poi sono 500.000 contribuenti. Per favore, quella dei dirigenti del pubblico impiego con 90.000 euro lordi, magari due figli, se li chiamiamo ricchi. Appunto. Quindi insomma cerchiamo anche un po' di eliminare un po' di facile demagogia. No, non c'è granché. Obiettivamente questa è una manovra che, così com'è, adesso aspettiamo, però io ripeto, per antica anche consuetudine con i testi parlamentari, io vorrei aspettare di vedere gli emendamenti. Ora stiamo ragionando su degli annunci che sono politici, quindi io credo, ho un po' il sospetto che alcune di queste misure annunciate ieri non forse saranno, non credo, perché ad esempio questa qua sulle pensioni, quella ho già visto che i medici vogliono fare ricorso, il sindacato dei medici italiani, anche gli stessi magistrati, lo dice l'ANM, è incostituzionale colpire solo i dipendenti pubblici per quello che riguarda la misura del contributo di solidarietà. Secondo te ci sarà bisogno di una manovra correttiva? Beh, dunque, al momento l'abbiamo già fatta, abbiamo corretto quella precedente, quindi con ogni probabilità per ora siamo a posto. Il problema fondamentale è quello che hanno osservato sia la Banca d'Italia che l'Istat, e cioè la crescita, quello che dicevamo prima. Se noi cresciamo molto di meno, allora probabilmente bisognerà rimettere mano, forse non quest'anno, ma magari all'inizio del prossimo, perché sennò il pareggio di bilancio non lo raggiungiamo. Sì, perché il pareggio di bilancio è un rapporto deficit-PIL. È chiaro, esatto, che se il PIL, il denominatore, cresce meno del previsto, aumenta in automatico anche il rapporto stesso. Grazie, grazie Dino Pesole. Adesso la borsa. Meno 0,23% riduce le perdite nel finale Milano, meno 0,46 Francoforte, più 0,20 Parigi, Londra più 2,60, ma ripeto, era chiusa ieri, recupera oggi i rialzi delle altre borse di ieri. Fondiere Assai più 4,31, Buzzinice in più 3%, Fiat più 2,30 come Toz, Mediaset più 1,80 e Pirelli più 1,70, Atlantia più 1,60, Luxottica più 1,32, Generali più 1,20 come Tenaris, l'1% lo guadagna l'automatica e lo 0,90 Campari. Chi perde? Monte dei Paschi meno 2,60 come UbiBanca, il 2,40 lo perde Terna, il 2% lo perde Snam Rete Gas e anche Intesa San Paolo, l'1,80 il calo di Fiat, l'1,70 quello di Enel, infine l'1,20 lo perde Unicredito e l'1% Parmalat. Negativa anche la Popolare di Milano, che ha perso lo 0,74%. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Radio Corriere sulle 24 ore. Al di là di Londra, oggi si poteva immaginare un impatto un po' più positivo dell'asta di BTP italiani, invece mi sembra che poi sia passato un po' in cavalleria. Sì, assolutamente sì, infatti il risultato dell'asta è stato sostanzialmente positivo, almeno così è stato ritenuto dal mercato, ma vi è stato un incremento ancora della volatilità dei titoli di Stato italiani con lo spread, quindi il differenziale tra BTP decennale e Bund tedesco, che si è riavvicinato a quota 300 punti e quindi questo ha penalizzato il nostro listino e più che altro le banche italiane, che hanno chiuso quindi in netto calo, mentre in Europa il settore ha chiuso in territorio positivo grazie soprattutto al balzo delle banche inglesi. Sì, l'Inghilterra oggi, Londra, ha recuperato tutte le crescite di ieri, ma insomma ha mantenuto i rialzi tutto il giorno, più 2,5%. Come mai le banche inglesi? Le banche inglesi sono andate bene appunto perché Londra ieri era chiusa, quindi non ha potuto beneficiare degli acquisti che ci sono stati ieri sul settore, quindi oggi hanno recuperato e abbiamo visto che alcune banche hanno segnato anche un incremento del 7% come Royal Bank of Scotland. Poi ci sono alcuni conti di banche italiane, per esempio UBI, e UBI viene punita dalla borsa, meno 2,60%, e anche Monte dei Paschi, che li ha presentati però venerdì. Sì, allora per quanto riguarda UbiBanca, allora gli analisti hanno ritenuto i conti sotto le attese, anche se l'utile netto è più che raddoppiato, ma è più che raddoppiato grazie soprattutto a voci straordinarie, e altrimenti il risultato netto si sarebbe attestato a 70 milioni nel semestre contro invece i 251,7 milioni di euro circa. E inoltre, secondo quanto ha riportato appunto gli analisti di Equita, l'utile diventerebbe una perdita di 21 milioni nel secondo trimestre. Per quanto riguarda MPS, il titolo ha ceduto il 2,6%, la banca ha comunicato i conti venerdì scorso, conti che non hanno convinto gli analisti di Piazza Affari, che hanno ritenuto l'utile superiore al consensus, ma i ricavi core che sono rivelati più deboli del previsto. Una nota di servizio: domani Salvadanaio con Deborah Rosciani si occuperà anche della norma contenuta nella proposta della finanziaria, deve ancora diventare legge, per cui non sarà più possibile riscattare gli anni, o meglio, anche se li avete già riscattati, ma non saranno conteggiati gli anni del servizio militare e della laurea per arrivare alla pensione. Chiuso l'inciso, traffico, e poi andiamo sugli energetici, oggi negativi, e qui c'entra la manovra finanziaria. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:49, di nuovo con Sebastiano Barisoni. Allora, Livia Zancaner, gli energetici oggi soffrono della manovra finanziaria, questo lo possiamo dire tranquillamente, nel senso che la Robin Hood Tax, oddio Robin Hood, e tra l'altro proprio oggi il Presidente della Corte dei Conti ha detto attenzione, perché dalla Robin Hood Tax potrebbero esserci sorprese sgradite per i clienti. Traduco, ce la fanno pagare a noi poi sul prezzo della benzina e dell'energia. I titoli. Sì, allora Terna ha chiuso in calo del 2,4%, Snam del 2% ed Enel dell'1,7% circa, quindi il governo ha confermato nella manovra bis l'inserimento della Robin Hood Tax, che avrà quindi un forte impatto sulle società del settore. Allora per Terna e Snam l'impatto è calcolato intorno all'8-9% dell'utile per azione, per Enel Green Power del 5% circa. A questo vi è però un altro risvolto positivo per un'altra società, che è Atlantia, che ha chiuso in rialzo dell'1,6%, in quanto il governo non ha presentato alcun emendamento appunto alla tassa, quindi alla Robin Hood Tax, che non includerà quindi anche le autostrade e le telecom come ci si aspettava in alcuni giorni fa, e quindi di questo ha beneficiato quindi Atlantia. Chiudiamo con il lusso e Fondiere Assai è stata la migliore oggi in borsa, più 4,31%. Il lusso lo cito perché Tod's è andata bene, più 2,34%, Luxottica più 1,32%, ma anche Louis Vuitton Moanesi più 6,7% e Ferragamo, Bulgari, insomma. Che succede? Con la crisi ci guadagna il lusso? Sì, allora ci sono segnali positivi per il settore del lusso. In particolare, allora, domani sono attesi risultati positivi da Hermès International, che il mese scorso aveva alzato le previsioni di crescita, di vendita e redditività, e quindi i risultati del semestre sono attesi assolutamente positivi. E per quanto riguarda Ferragamo, ieri ha comunicato i conti che sono risultati appunto positivi, con ricavi in salita del 29,8% e un utile netto in rialzo del 32,4%, quindi il settore sta iniziando a beneficiare dei conti comunicati dalle società. Fondiere Assai? Fonsai, allora, ha presentato i conti nel semestre, ha più che dimezzato le perdite di pertinenza, 61,9 milioni, ma soprattutto il titolo ha beneficiato delle dichiarazioni dei vertici della società, che hanno confermato i target finanziari per l'intero 2011 in assenza di nuove turbolenze finanziarie, e quindi il titolo ha beneficiato delle dichiarazioni del salito del 4,3%. Grazie Livia Zancanera, Radio Cori, il Sole 24 Ore. Devo dare i migliori e peggiori in assoluto. Falck Renewables più 11,44 e Mondo TV più 6,75. Male invece Monti Ascensori meno 7,33%, Ecogem Set meno 9,31%. Al di là dei soldi che entreranno dalla legge finanziaria, più tasse o minori trasferimenti agli enti locali, c'è un'altra voce di entrata che non c'entra col pacchetto della finanziaria, ma su cui il governo punta molto, che è quella che dovrebbe derivare dai ricavati per la vendita di alcune frequenze digitali, l'asta che oggi si è aperta ufficialmente per le frequenze del digitale. La dico correttamente? La frequenza di quarta generazione di telefonia mobile. Poi cercherò di capire a quanti sono i megahertz, che lavorando in radio dovrei saperlo, ma non lo so, dovrebbero essere alcuni lotti da 800 megahertz, ma parliamo di soldi e lì ci capisco un po' di più. Il governo si attende di incassare alla fine dell'asta 3 miliardi e 100 milioni di euro. La base d'asta, che inizia oggi, di 2 miliardi e 400 milioni di euro. Le frequenze sono quelle derivanti dal passaggio delle TV al digitale terrestre e frequenze anche del Ministero della Difesa, frequenze preziose per gli operatori di telefonia mobile perché, adesso lo spiegheremo, hanno diciamo, una ottima qualità, un'ottima capacità di coprire il territorio, e gli operatori di telefonia mobile in questo momento vivono il sovraccarico della rete, come si chiama in gergo. 2 miliardi e 3, Daniele Lepido del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque l'asta entra nel vivo domani, perché domani si va a rilanciare. Gli operatori che partecipano sono praticamente tutti, H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind. Com'è andata la prima giornata? È una giornata piuttosto vivace, si attendeva in realtà una gara più tranquilla, con alcune sorprese. La sorpresa di Wind, che ha fatto 6 offerte, e Telecom, che ne ha fatte 6 anche lei, e anche H3G, che è un po' il vero ago della bilancia di quest'asta, che potrà garantire in qualche modo la competizione competizione. Un po' delusione su Vodafone, che ha fatto una sola offerta sugli 800 MHz e che quindi sarà costretta a rilanciare. Le frequenze più pregiate sono quelle a 800 MHz, quelle in grado di garantire la copertura maggiore. E l'altra cosa da dire è che su questi 800 MHz, dove ci sono 6 lotti, la cosa importante è che ogni operatore dovrà avere almeno 2 lotti contigui per poter offrire un servizio buono. Wind se li ha già in qualche modo aggiudicati con 2 lotti, H3G ha un solo lotto, Vodafone 1, Telecom 1. Ecco, la lotta sarà sicuramente la lotta ai rilanci. La lotta tra i lotti, diciamo. Esatto, sì, tra Vodafone e Telecom domani, che saranno costretti a rilanciare. Ecco. Ma non ho capito, i lotti a disposizione in vetta sono 24. Però complessivamente su diverse frequenze, perché abbiamo gli 800 MHz, per cui quelli 800 MHz più pregiati, quanti sono? Sono 6. Ecco perché tu ragionavi di, esatto, come vengono divisi tra Wind, Telecom, Vodafone e H3G. Il governo si attende di incassare almeno 3 miliardi e 100, ci arriverà secondo te? Diciamo che probabilmente sono un po' tanti 3 miliardi e 100, ma i rilanci ci saranno, quindi si andrà sicuramente sopra i 2 miliardi e 4, che è la cifra indicata dalla legge di stabilità. Ecco, 3 miliardi comunque sarebbe un buon risultato, contando che la Germania per un'asta analoga anni fa ne ha incassati circa 4 miliardi, ma non c'era il nodo delle TV locali. Ecco, e su questo vorrei chiudere rapidamente, perché attualmente molte TV locali occupano parte di queste frequenze da 800 MHz e vogliono un indennizzo per uscirne. Si è arrivati a un accordo, perché loro chiedevano in tutto 240 milioni, anzi oltre 240 milioni di euro offerti inizialmente dal governo. Ma allora, la cifra considerata fair è circa il doppio. L'accordo 500. Sì, non c'è ancora, si sta ancora trattando, e diciamo che gli operatori di telefonia in qualche modo è come se avessero, se stessero comprando una casa occupata, perché i lotti occupati dalle TV locali sono proprio quelli sull'800. Ma entro il 2012 dovranno andare via, altrimenti ci sarà, come dire, una sorta di sfratto delle TV locali. Per cui io avevo capito che ci fosse un accordo per cui alle TV locali andrà il 10% di quanto ottenuto dall'asta. All'inizio era il 10% di 2,4 miliardi, quindi 240 milioni di euro. L'accordo a metà che è stato raggiunto è quello che porta, che fa rimanere il tetto al 10%, ma sul risultato dell'asta. Quindi sarà 3 miliardi, il 10% di 3 miliardi, ma è probabile che non si accontenteranno. Quando finisce locali la gara? La gara domani iniziano i rilanci e potrebbe essere lunga, come ha detto tipo proprio pochi minuti fa, ma potrebbe essere anche qualche settimana. Grazie Daniele Lepido del Sole 24 Ore. Due battute: non ho mai detto che Bulgari sia cresciuta come valore di borsa, c'è un'OPA in corso, ho detto solo che Bulgari va bene come conti, come va bene tutto il lusso. E ancora, dopo il GR, ascolteremo anche i commenti di vari osservatori su questa manovra finanziaria. Vedo moltissime critiche al riscatto, al non riscatto della laurea e del servizio militare, parleremo anche di questo. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E allora, dopo aver affrontato la manovra, le novità della manovra nei vari aspetti, adesso vorrei fare un passo indietro e giudicarla nel suo complesso, perché ricordiamo che questa manovra è nata dopo quella varata il 6 luglio 2011, che però spostava tutti gli interventi principali al 2013-2014, è nata come conseguenza di un attacco finanziario e anche speculativo, non solo all'Italia, ma in primo luogo all'Italia, e l'esigenza di tranquillizzare i mercati. Ora, mi rendo conto che molti siano ancora arrabbiati per la norma sul militare e i periodi di laurea, per cui non potranno essere conteggiati per andare in pensione anche chi li ha riscattati. Altri sono arrabbiati perché non viene toccata l'evasione fiscale come avrebbe voluto, non c'è una richiesta di contributo aggiuntivo per i ricchi o per i capitali con il patrimonio superiore a 1,5 milioni, fatta salva la prima casa. Però vorrei, se è possibile, lo chiedo anche agli ascoltatori al 349-238-6666, giudicarla nel suo complesso. Ecco perché ringrazio e saluto per averci raggiunto in collegamento, da un lato, Guido Gentili, che è editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, Guido. Buonasera a voi. Grazie anche a Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera, Polito. Buonasera, buonasera. E grazie anche a Nicola Porro, vice direttore del giornale. Buonasera anche a te, Nicola. Buonasera. Allora, Guido, diamo un giudizio complessivo, perché come ha scritto oggi anche Dino Pesoli su Sole 24 Ore, la parte a livello macroeconomico di questa manovra che sembra più dubbia sono i 4 miliardi che vengono meno, perché vengono ridotti i tagli alle province e agli enti locali di quasi 3 miliardi e quindi più altre voci sul risparmio e per esempio la tassa di solidarietà che non viene più applicata al privato ma solo al pubblico, complessivamente sembrano mancare 4 miliardi. Ti sei sorpreso del silenzio di Tremonti in queste ore? No. No. Francamente no. Dunque, diciamo che ieri la giornata è stata piuttosto concitata e confusa, così come sono stati confusi gli ultimi 15 giorni dopo il varo della manovra bis il 13 agosto scorso. Cioè abbiamo visto tutto, il contrario di tutto, abbiamo visto le proposte più astruse e fantasiose. Siamo arrivati al giorno del giudizio, che era ieri, quello della presentazione degli emendamenti e in particolare dell'ultimo vertice dell'accordo tra PDL e Lega, e siamo arrivati alla riscrittura pressoché completa della manovra. Quindi è un cantiere che era aperto e in qualche modo rimane aperto. È stato detto subito, i saldi sono invariati, la parola d'ordine è questa, però ecco, bisognerà attendere qualche giorno per capire bene se davvero questi saldi sono invariati e risolvere il problema della copertura, perché questi 4,5 miliardi effettivamente mancano. Allora, Nicola Porro, anche per te questa domanda, poi ve ne farò un'altra di carattere diciamo, su cosa ha originato questa manovra, ma anche come poi è terminata questa manovra. Però non si poteva fare altrimenti, cioè sgradevole il fatto di levare il conteggio del servizio militare della laurea anche a chi l'ha riscattato sulla pensione, ma insomma rispetto a altre ipotesi il tuo giudizio qual è? Beh, intanto una manovra da 45 miliardi che poi diventano di più, che poi ha effetti triennali, insomma stiamo parlando di manovre talmente importanti dal punto di vista economico che la sgradevolezza o da una parte o dall'altra ci sarebbe arrivata. Cioè il tema fondamentale è un altro, sempre oggi sul Sole 24 Ore, sempre il vostro ottimo collega Pesole fa capire qual è il tema fondamentale, che cioè tutte le grandi manovre fiscali fatte da Amato a Prodi a Berlusconi sono manovre fiscali che agiscono sul lato delle entrate. Arriveremo a un gettito sul PIL presumibile del 47%. Questo è il dato fondamentale. Quindi su questo non c'è nessuna discontinuità rispetto al passato. Io abbiamo un'abitudine per cui la nuova tassa che fa grandi scandali e dopo un mese viene dimenticata. Ma insomma, noi ci dobbiamo anche ricordare che poi potrà star bene a tutti quanti, però c'è stato l'aumento del bollo sui titoli, sui depositi titoli, c'è stato l'aumento sulle macchine di superlusso, ci sono stati gli aumenti delle accise, ci sono stati gli aumenti della Robin Tax, che vuol dire meno investimenti per società che in Italia dovrebbero produrre ricchezza. Il tema fondamentale, ce ne sono tanti altri che non vado ad elencare, il tema è se il 70% delle correzioni viene fatto sempre attraverso la leva fiscale che deve rincorrere le spese, e quello è la regoletta magica sulla ripresa di cui tanto si parla in questo paese. Se noi pensiamo che la ripresa si potrà attuare dando bastonate ai contribuenti, beh, forse non è questa la strada giusta. Questa è la prima considerazione. La seconda, velocissima, Sebastiano, è che dal punto di vista pensionistico, permettimi anche un po' di rimettere nella giusta luce quello che tu stavi giustamente dicendo. E qui non è che il periodo di laurea e di servizio militare non vengono conteggiati. In un caso particolare, cioè quello delle pensioni di anzianità, sì, che non sono pensioni sull'anzianità, di vecchiaia, certo. È sull'anzianità, e comunque il loro costo, perché hanno un costo soprattutto della riscossione della laurea. Capisco che questa è una cosa che fa infuriare quelli che sono sottoposti a questa, e quelli che l'hanno già pagata, è evidente, però quella roba lì ha un peso dal punto di vista della corresponsione della pensione. Un miliardo e mezzo in 3 anni è risparmio. No, sto parlando del fatto che se io ho riscattato la laurea, comunque quei soldi non vanno perduti, perché vengono considerati quegli anni, ovviamente, giustamente. Quello che si è fatto in maniera surrettizia, si è cercato per 100.000 persone di aumentare l'età pensionabile di un anno, sì. Cosa che in maniera altrettanto surrettizia nel passato si faceva, slittando le finestre di uscita. Si vanno a sommare tutte queste cose, perché non si ha il coraggio di dire a tutti che purtroppo purtroppo noi dovremo lavorare molto di più per poterci permettere le pensioni, che per la verità poi neanche sono così oppure dovremmo lavorare molto di più per poterci permettere un po' di meno, perché questo sarà poi se per noi dovremmo ammetterla questa cosa. No, ma io sulle pensioni ho appena beccato alcuni insulti degli ascoltatori, perché ho detto nella prima ora che forse il male minore, pur essendo un male, sarebbe stato il ritocco dell'età pensionabile, di tutte le proposte, oltre che la lotta all'evasione e secondo me anche un po' di solidarietà da parte di grandi patrimoni, come è avvenuto in Francia o come chiede Warren Buffett in America. Comunque, riguarda le pensioni di anzianità e ad essere coinvolti sono, stando alle stime che abbiamo visto, circa 180.000 persone. Tu però, Nicola, stavi già introducendo un altro tema, cioè com'è che non si è arrivati a certe misure, ma è la seconda domanda che ho per voi. Vorrei sentire anche Antonio Polito sulla manovra, se risponde, al di là dei vari dettagli, al motivo per cui è nata: attacco fortissimo, speculativo, finanziario, chiamatelo come volete, da metà luglio a metà agosto, anche e soprattutto all'Italia e al suo debito. Ma secondo me è successo esattamente questo, che come dire, è passata la festa che ha battuto lo santo, insomma, nel senso che qualche settimana fa si agì sotto la pressione della BCE, che chiedeva garanzie precise di una serie di provvedimenti in cambio di un intervento molto massiccio e molto inusuale, anche fuori, secondo me, dalle competenze, dai compiti della BCE, per far ascendere i rendimenti dei titoli di Stato italiani, cioè per evitare che superassero la soglia critica del 7%, dopo la quale c'è un grave rischio di avvitamento di tipo greco, insomma, di default, eccetera. Quindi la Banca Centrale, noi abbiamo promesso questa cosa, abbiamo fatto una manovra che era chiaramente, diciamo così, più severa di questo, nel senso che raccoglieva più soldi. La Banca Centrale ha comprato 30 miliardi di titoli italiani, adesso ha nella pancia 30 miliardi di titoli italiani, e passata la tempesta noi tutti abbiamo un po' pensato che forse ognuno poteva scampare la propria categoria, oppure ogni politico ha pensato di salvare la propria constituency, il proprio gruppo di pressione più vicino, eccetera. Il risultato è quello che è venuto fuori ieri ad Arcole, cioè un tentativo di addolcire la cosa, che secondo me giustamente non insegue perlomeno tutte le fantasiose idee di tasse che erano circolate in queste settimane, come se ormai si diventava una specie di guerra civile delle tasse, ognuno proponeva la tassa che faceva più male al gruppo sociale opposto, mentre le tasse fanno male comunque, e non solo ai tassati ma anche all'economia, perché la deprimono, perché la frenano e così via. Però il risultato, diciamo, è, togliendo il contributo di solidarietà, non aumentando l'IVA, cosa di cui pure si era parlato, non mettendo forme di patrimoniale, cosa che pure era stata proposta, il risultato è che mancano dei miliardi all'appello, perché si finge che quei soldi che non sono stati presi da queste tasse vengano presi attraverso la lotta all'elusione fiscale, che come al solito è una intenzione più o meno pia, più o meno reale, a secondo di come si usano gli strumenti per farlo, ma che in genere non dà le cifre che si scrivono sulla carta. Allora, visto che citavate la famosa lettera, che non abbiamo mai letto però, della Banca Centrale, diciamo ghostwriter Mario Draghi, inviata al governo italiano, oggi vi faccio ascoltare di nuovo un pezzetto dell'intervento di Ignazio Visco, vice direttore della Banca d'Italia, che quindi parla ancora a nome di Mario Draghi, in audizione al Senato. Rischio stagnazione, la manovra è per forza, naturalmente, non poteva essere altrimenti, dice Visco, avrà un effetto depressivo sulla crescita. L'Italia ormai cresce poco, meno degli altri paesi dell'Unione Europea, e tuttavia l'aggiustamento dei conti, che è necessario per evitare uno scenario molto più grave, avrà inevitabilmente effetti recessivi sull'economia. Si rischia una fase di stagnazione che rallenterebbe anche la flessione del peso del debito sul PIL. Per questo il riequilibrio dei conti pubblici non può non associarsi a una politica economica decisa volta al rilancio delle prospettive di crescita dell'economia. Non vi sono tuttavia alternative a un rapido pareggio ai nostri conti pubblici e al miglioramento della qualità della regolamentazione dei servizi. L'azione di risanamento dei conti pubblici, che è volta al pareggio del bilancio nel 2013, tuttavia rallenterà la crescita e non ha alternative. Ogni altro scenario condurrebbe a risultati più drammatici per il nostro Paese. L'entità complessiva dell'aggiustamento programmato non può essere ridotta, la composizione, oggi maggiormente a carico delle entrate, andrà quanto prima, secondo noi, rivista, rafforzando l'azione di contenimento della spesa. Così il vice direttore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Dopo il traffico, vorrei sapere da Gentili, Porro e Polito una piccolissima considerazione, ossia, secondo voi questa manovra, che avete giudicato rispondente più a motivi politici che solo a motivi contabili, è il frutto della difficoltà del ministro Tremonti? Cioè, se Tremonti fosse stato ancora il Tremonti di due mesi fa, non si sarebbero toccati i vari aspetti della manovra e vi sarebbe stata una minore sensibilità verso la politica? E se sì, perché dentro non c'è nessuna manovra, nessuna misura sulla crescita, visto che dopo le amministrative e il referendum la Lega chiese con insistenza di mettere anche la crescita dentro la manovra e non solo le tasse? La risposta dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. 18-19 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, ultima parte di Focus Economia. Dunque, Guido Gentili, è una manovra che ha risentito della politica, degli assetti elettorali, perché Tremonti era in difficoltà? E se sì, perché nonostante l'assenza di Tremonti mancano componenti politiche come tutte le iniziative sulla crescita? Ma dunque, il Tremonti di oggi non è più il Tremonti di 5 o 6 mesi fa, per due motivi. Il primo è perché è stato la figura del ministro dell'economia, che è il ministro di punta di questo governo, è stata, diciamo, toccata in qualche modo da un'inchiesta che riguarda il suo più stretto collaboratore, almeno fino alla fine di giugno scorso, cioè Marco Milanesi, un deputato del PDL. Quindi questo è il primo elemento che ha indebolito la figura di Tremonti. E secondariamente, forse cose più importanti, vorrei ricordare che Tremonti, almeno fino a luglio, cioè fino al momento in cui è stata varata la prima manovra, aveva assicurato che non c'era alcun bisogno di intervenire drasticamente per il 2011 e per il 2012, e quindi aveva progettato una manovra che, come sappiamo, si è dimostrata insufficiente e che spostava tutto l'onere dell'aggiustamento sul 2013 e 2014, e questa si è rivelata un'impostazione a torto ragione sbagliata. Quindi questo è un elemento. Su questo ovviamente ha inciso quello che sono i rapporti, la dialettica interna alla maggioranza di governo, quindi con i problemi che ci sono stati, i no della Lega su tanti punti, compreso quello delle pensioni, almeno fine a ieri, che era, diciamo, un tema tabù che non si poteva toccare, e quindi questa è la situazione. Vorrei solo ricordare, prima abbiamo sentito le parole del vice direttore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, vorrei solo ricordare che dobbiamo tenere alta la guardia, la partita non è finita qui, non era finita il 13 agosto con la prima manovra di aggiustamento bis, e non è finita con la riscrittura di questa manovra, perché quest'anno, solo da qui alla fine dell'anno, dobbiamo rinnovare sul mercato, dobbiamo piazzare qualcosa come 130 miliardi di titoli pubblici italiani, e l'anno prossimo ci aspetta una cifra che, lo ha fatto lo stesso Visco oggi, ammonta a 250 miliardi di titoli italiani da piazzare sui mercati. Quindi noi continuiamo a essere sotto osservazione dall'Europa, dai mercati, quindi non possiamo far finta di nulla. Quindi anche questa riscrittura della manovra, con qualche passo avanti, pur nella grande confusione, non può essere scambiata per una soluzione definitiva. Ma in una battuta, perché poi devo dare parola anche agli altri ospiti, ma perché, se Tremonti ha avuto meno peso, tutti dicevano non c'è mai niente nella crescita perché Tremonti pensa solo a tenere i conti in ordine e a fare tagli, aumentare eventualmente la pressione fiscale. Bisogna che la politica intervenga, non solo la contabilità ragionieristica. Bene, Tremonti adesso è più debole, però io non ho visto, Guido, una grande iniziativa sul fronte della crescita e non solo dei tagli. No, non c'era ieri, e non era solo per colpa di Tremonti, perché nonostante le molte promesse, su questo terreno invece si è spinto più sul pedale, come sappiamo, del fisco, del pedale delle entrate, perché che sia la prima manovra, che sia la seconda manovra di correzione, che sia la terza manovra, la riscrittura della seconda, abbiamo sempre, diciamo, il carico fiscale è sempre quello più importante. Cioè, un terzo da una parte, taglio alle spese, due terzi di maggiori entrate fiscali. Il problema è che non si riescono a fare le riforme nonostante il grande successo che ha avuto questo governo nel 2008. Sì, poi sappiamo ci sono stati dei problemi, dosaggi interni alla maggioranza, ma questo è il problema di fondo. Sì, non ha fatto le riforme. Continuo a non capire perché non si siano ceduti alcuni beni dello Stato, anche piccole quote di Finmeccanica, di Eni, di Enel. La privatizzazione delle poste, le municipalizzate, su questo è calato il silenzio. Comunque, Nicola Porro e poi Antonio Pulito, la domanda è identica. Nicola. Ma sulla prima parte della domanda, secondo me ha risposto Gentili, io penso quello che dice lui sul ruolo di Tremonti e sul suo indebolimento. Sulla questione della crescita però c'ho un'idea un po' particolare, cioè che anche Mandrake, non so, con Goldrake e Superman al governo, non è che fanno un decreto e dicono adesso cresciamo del 3% col PIL, cioè è una cosa un po' complicata. A me viene un po' da ridere quando noi diciamo manca, gli scrivo anch'io, mancano tutte le maniere. No, lo dicevano i politici dopo le amministrative, dopo il referendum. Più mi viene da ridere quando lo dicono i politici. Io penso una cosa banale, e cioè che è una cosa che una certa teoria economica ha esplicitato, che lo Stato deve ovviamente ha delle entrate e ha delle uscite. Un euro di uscita dello Stato, bisogna ridurre queste uscite dello Stato e bisogna aumentare le entrate, sono le due leve che c'hanno. E se io aumento le entrate di un euro, io ho una misura recessiva di un euro. Se io invece riduco le spese di un euro, la misura recessiva non è di un euro, perché quella spesa pubblica è un po' più inefficiente di quanto sia la spesa privata. Questa è una teoria ovviamente un po' ideologica, ma è la stessa che oggi Visco diceva, nel senso che diceva che bisognava agire più sulla spesa che sulle entrate. Bene, un governo che voglia lo sviluppo è un governo che deve liberare risorse al privato, deve arretrare. Quando tu dici bisogna privatizzare, il senso della privatizzazione delle poste, di quello che tu vuoi mettere sul mercato, non è tanto l'incasso una tantum che si fa, talvolta poi quell'incasso è anche inferiore dell'attualizzazione dei dividendi che potrebbe dare quella società nel tempo, ma è il fatto che i privati riescono a gestire meglio del pubblico in maniera più efficiente le risorse. Non è un caso che la nostra produttività sia inferiore a quella di tanti altri paesi proprio per questo. Non possiamo pensare di gestire ancora in modo tremontiano l'economia attraverso quelle battute che lui ha fatto sull'IRI, sul ruolo pubblico, perché è quello che rende la nostra crescita ridotta. Quindi le poche misure che un governo saggio avrebbe dovuto fare per la ripresa è liberare le risorse dell'economia, liberare le professioni, liberalizzare, e sono però grandissime riforme che vanno a incidere sulla carne viva della nostra casta medievale, che non è fatta soltanto dai politici, perché noi ce la prendiamo e anche giustamente soltanto i politici, ma guai a toccare 250.000 avvocati. No, guarda, io ho avuto il presidente dell'Ordine degli Avvocati che ha sbattuto il telefono in faccia in diretta. No, sulle liberalizzazioni sono d'accordissimo con te, tutte, e sono a costo zero, anzi hanno un vantaggio perché poi mettono in concorrenza settori protetti. Comunque, Antonio Pulito, quindi la colpa non era di Tremonti se mancavano misure per la crescita, mi sembra di capire, e secondo te il ministro avrebbe fatto più da argine se fosse stato ancora completamente saldo al comando rispetto a una finanziaria che ha ascoltato più le richieste della Lega o del PDL che quelle dei mercati internazionali? Ma su questa seconda questione Tremonti, secondo me, ha ragione Gentili, nel senso che Tremonti è più debole proprio a causa delle manovre che ha fatto, è la terza in tre mesi, è evidente che c'è qualcosa che non va. Lui era forte della sua credibilità tecnica, del fatto che era un po' quasi il commissario dell'Europa nel governo italiano, no? Nel momento in cui questo commissariamento non ha funzionato, perché gli argini sono saltati, le sue previsioni e la sua politica di bilancio si è dimostrata sbagliata rispetto a quello che è successo nei mercati, è chiaro che ha perso peso. Siamo stati commissariati direttamente da Francoforte e da Parigi e Berlino, e il suo ruolo è diventato molto, molto meno rilevante. Quindi direi che questo è il punto politico che è veramente successo. Sulla seconda questione, perché non ci sono le misure per la crescita, invece secondo me ha ragione Porro, nel senso che la prima misura della crescita è la riduzione di imposizione fiscale, cioè liberare risorse, lasciare più soldi nelle tasche della gente, che stimola investimenti e consumi. E questo non si può fare perché abbiamo il bilancio che abbiamo e perché non si riesce a tagliare contemporaneamente di uguale misura le spese. E perché non si riesce a tagliare le spese? Perché secondo me questa maggioranza di centrodestra si è scoperta negli anni molto più statalista di quanto si potesse immaginare. La Lega, per esempio, che era un movimento in origine antifiscale, è diventato un partito statalista, diciamo, che difende piccoli gruppi di lavoratori autonomi e dipendenti con la stessa, con gli stessi argomenti di un Cofferati e la CGIL tanti anni fa. Il pensioni non si tocca era l'argomento principe di Cofferati. Le riforme dal punto di vista del mercato del lavoro, delle liberalizzazioni, non si sono più fatte perché sono state dichiarate inutili, obsolete da Tremonti, per esempio, frutto di un'ideologia mercatista che non aveva più alcun senso. E infine toccare, diciamo così, le corporazioni si è reso impossibile perché si è visto che sono parte integrante della costituenza elettorale del PDL, quello che è successo sull'ordine degli avvocati in Parlamento, quando i deputati avvocati e i senatori avvocati del PDL, che sono schiere, che sono circa il 10% del Parlamento, si sono ribellati, non si è toccato più nulla. Grazie, io devo chiudere, grazie e in bocca al lupo Nicola Porro che per il suo nuovo programma televisivo con Luca Terese. Grazie a Nicola Porro, vice direttore del Giornale, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.